Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, vi stavo aspettando e saremo insieme fino a mezzogiorno. Andiamo subito a sentire i temi del nostro sommario. Andiamo. Quando il fungo si sveglia, parliamo di Candida. Un esame visto da vicino, l'elettrocardiogramma. Se un'unghia ti fa vedere le stelle. Dedichiamo la prima parte della nostra puntata ad un fungo che sonnecchia sin dalla nostra nascita sulla nostra pelle, nel nostro intestino, nella bocca, nei genitali. Non c'è nulla da preoccuparsi perché è tutto normale. Nel nostro corpo vivono migliaia di microrganismi raggruppati in famiglie e dal loro sottile equilibrio, dalla loro convivenza felice, lasciatemelo dire, dipende la nostra salute. Sino a quando tutte le famiglie sono in pace, tutto procede bene e noi stiamo bene. Ma... se per una qualsiasi ragione l'equilibrio si altera e una specie normalmente minoritaria alza un po' la cresta, prende il sopravvento, numerose funzioni fisiologiche possono risentirne. Ed è quanto accade per esempio con un fungo di cui ci occupiamo oggi, la candida. Ne avete sicuramente sentito parlare, non bene, immagino, perché quando si risveglia di solito fa danni. Allora oggi impareremo ad evitare che questo accada, ci sono delle regole semplici da seguire, ma parleremo naturalmente anche di diagnosi, di terapia e soprattutto cercheremo di sapere come evitare le recidive. Vi presento gli ospiti di oggi, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa, direttore del centro di ginecologia medica dell'ospedale San Raffaele Resnati di Milano, che è tornata a trovarci. Professoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, con un gran piacere. Anche da parte nostra e in linea con noi abbiamo Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, anche lui è tornato a trovarci con il consueto appuntamento mensile. Alessandro. Cara Nicoletta, buongiorno. Sì, questo mese sul numero di giugno di Star Bene affrontiamo diversi argomenti legati alla vacanza, legati ai primi caldi, quindi affrontiamo discorsi tipo la pressione, l'anemia, tutta una serie di problemi e non poteva, come giustamente sottolinei tu, mancare il discorso della candida, perché proprio con i primi caldi noi vediamo che le lettrici si riaccendono e iniziano a fare domande sull'argomento, per cui sarà una puntata sicuramente seguita anche dalle lettrici di Star Bene. Allora, professoressa Graziottin, iniziamo da una sorta di carta d'identità. Noi abbiamo sentito parlare di Candida albicans, ma non è la sola, ne esistono altri ceppi e questo è importante, voglio sottolinearlo subito perché bisogna conoscere la famiglia per attivare le giuste strategie. Si tratta di una famiglia di funghi, la Candida albicans è la dominante, interessa circa l'80-90% delle infezioni, poi abbiamo altri ceppi, la crusei, la glabrata per esempio, che possiamo trovare di più nelle forme recidivanti, ma anche per esempio nelle donne diabetiche. E già cominciamo subito a dire un fattore di rischio, l'aumento della glicemia, cioè degli zuccheri nel sangue, e soprattutto un cattivo controllo del diabete, ci portano a creare un terreno, come si dice tra virgolette, molto favorevole alla candida. Allora, la prima regola qual è? Avere un'alimentazione che privilegi il fruttosio, quindi la frutta, e che limiti, o meglio eviti, il glucosio, che è uno zucchero che invece tende a facilitare la proliferazione della candida. Voi potreste dirmi, ma perché glucosio no e fruttosio sì? Sì? C'è una ragione molto importante, che il nostro organismo, che si è evoluto nel corso dei millenni, ha la capacità di utilizzare il fruttosio che entra liberamente nelle cellule senza utilizzare l'insulina, mentre l'insulina è necessaria per il metabolismo del glucosio, che è uno zucchero che non fa parte della nostra evoluzione, ma che è entrato quando è stata portata la canna da zucchero dagli paesi dal Centro America. Allora qual è il punto? Che noi con un'alimentazione già più sana, che limiti, ripeto, al massimo il glucosio, privilegi il fruttosio, senza esagerare, e come dolcificante eventualmente il miele, già cominciamo a fare il primo passo di alimentazione preventiva nei confronti della candida. Poi ci sono altri passi che vedremo in seguito. Ma noi li faremo in seguito insieme a lei, perché professoressa Graziottin, non svegliare il can che dorme, è un proverbio che calza pennello per la candida. Lei ha già anticipato alcuni dei disturbatori, ma io andrei subito all'intestino, il regno delle migliaia di microrganismi diversi che popolano il nostro corpo e ne ottimizzano il funzionamento. Insomma, è una parte del nostro corpo molto importante, da cui dipende la nostra salute. Pensi, milioni i microrganismi che abitano il nostro intestino, anzi miliardi, e solo una parte è stata ancora caratterizzata, sia studiata, individuata, in altre parole ne sappiamo l'identità. Lei ha detto benissimo, il colon è addirittura il più grande, pensate, organo immunocompetente del nostro corpo, ed è quello che in un certo senso determina la temperatura immunitaria del nostro corpo. In particolare oggi sappiamo che la famosa sindrome del colon irritabile non è una cosa psicologica che si attiva sul cervello delle donne, ma è uno stato infiammatorio reale della mucosa dell'intestino, caratterizzato poi da un'iperattività di una cellula di difesa che si chiama mastocita, che determina poi il grado infiammatorio di tutto il nostro corpo. E in particolare uno dei grandi fattori che scatena la candida, il famoso can che dorme, è l'antibiotico. Quando noi facciamo terapie antibiotiche andiamo a devastare, buttiamo una bomba atomica a livello di questo delicatissimo microcosmo di microorganismi amici, ed ecco che quei ceppi minoritari di cui già lei parlava bene all'inizio diventano, proliferano, e la candida, che è in forma di spora, quindi dormiente, si attiva e determina delle candidosi importanti non solo a livello intestinale ma addirittura a livello sistemico. E tra l'altro sappiamo che questi germi non passano solo, per esempio, la candida, ma anche altri, attraverso l'esterno, qui si dice l'igiene, attenzione, quando c'è uno stato infiammatorio della parete del colon, questi germi passano attraverso la parete del colon con un processo chiamato traslocazione, ed ecco che quindi è proprio vero che l'alterarsi degli ecosistemi del colon determina, potremmo dire a cascata, alterazioni a livello vaginale e persino a livello vescicale. Ecco che allora l'attenzione a rispettare il grande ecosistema del colon è un primo grandissimo requisito di salute. Alessandro, la professoressa Graziottin parlava di traslocazione, una sorta di trasloco, eh? Sì, quando si parla effettivamente di antibiotici si pensa subito a noi, fermenti lattici, non ci ricordiamo mai se vanno presi prima, durante o dopo. È interessante capire che questo nell'ambito di un ecosistema riguardi non solo, diciamo, quelli che sono chiamati generalmente batteri buoni, batteri cattivi, ma anche, diciamo, l'equilibrio della candida. Quindi esiste un discorso molto generale da questo punto di vista, ma è un discorso così generale che può influire per esempio anche gli equilibri ormonali? Professoressa Graziottin. Allora, l'equilibrio ormonale parte innanzitutto da una situazione di cervello che funzioni bene, e quando dico cervello che funzioni bene mi riferisco per esempio allo stress. Lo stress, che sia anche psichico, diventa però stress biologico perché attiva il sistema di allarme che comprende ormoni importantissimi come per esempio l'adrenalina e il cortisolo. Quando noi abbiamo uno stress cronico abbiamo ma anche quello acuto, se è uno stress importante, abbiamo una sregolazione anche del ciclo, e quindi un'alterazione nella produzione di estrogeni, di progesterone, ci può essere un salto dell'ovulazione. Moltissime donne sanno per vita come uno stress acuto, uno stress persistente si traduca immediatamente in alterazioni mestruali. Questo che cosa può comportare? Può comportare anche alterazioni degli ecosistemi che sono molto modulati dal livello degli estrogeni. Faccio un esempio concreto. Sì. La ragazza che per esempio ha un blocco mestruale perché è sotto stress, perché si è lasciata col fidanzato, perché è dimagrita troppo, dimagrita, bravissima, ha una carenza di estrogeni. La carenza di estrogeni determina un cambiamento importante dell'ecosistema vaginale, ma noi sappiamo anche in realtà dell'intestino. Ma andiamo sulla vagina. Si alza il pH vaginale, che normalmente nella ragazza sana che ha un ciclo regolare è intorno a 4. Quando si alza il pH, ecco che abbiamo di nuovo un'alterazione della proporzione relativa delle varie famiglie di microrganismi che abitano la vagina in questo caso. Per esempio aumenta un germe normalmente minoritario che si chiama Gardnerella, ed ecco che quando il pH si muove solamente da 4 a 5, moltissime donne dicono ho un cattivo odore in vagina e si lavano 20-30 volte al giorno. Il problema non è lavarsi, non è l'igiene esterna che magari è perfettissima, anzi perfino eccessiva, ma è la necessità di ripristinare un normale pH vaginale rimettendo gli estrogeni almeno in vagina, perché se noi rimettiamo di nuovo un pH 4, quello normale, ecco che spontaneamente il bacillo di Dodderlin, che è il nostro grandissimo amico perché ci difende da un mare di guai, torna a essere la famiglia dominante, per così dire, e la Gardnerella torna a essere un ceppo minoritario che non ci dà nessun fastidio. Quindi, rispondendo alla domanda di Alessandro Pellizzari, certamente sì, le alterazioni ormonali possono determinare a loro volta alterazioni degli ecosistemi. Altro aspetto specifico della candida è invece l'esplodere della candida in vicinanza del ciclo, tanto vero che circa un 25-30% di donne che ne soffrono hanno delle recidive proprio in coincidenza con la mestruazione per l'effetto della fluttuazione ormonale sulla virulentazione, sull'aggressività della candida. Poi devo anche dire, se ho ancora un minuto, un aspetto importante che stiamo capendo delle infezioni da candida, che si manifestano in due modi clinici molto diversi. Il primo, quello candido, che tutte le donne imparano a conoscere, è la classica proliferazione della candida che dà le perdite vaginali bianche, proprio molto dense, accompagnate da rossore, bruciore, eccetera. Questo tipo di candida risponde molto bene all'antimicotico, sia per via orale, perché abbiamo detto che spesso è interessato all'intestino, sia per via locale. Ma noi stiamo vedendo adesso che quello che è più temibile non è tanto l'infezione da candida una tantum, che può succedere la cura e buonanotte, ma un'infezione da candida che in soggetti probabilmente predisposti dà luogo a un'iperreattività di tipo allergico agli antigeni della candida. Che cosa succede in questi casi? La donna ha rossore, bruciore, un gonfiore pazzesco, non ha le perdite bianche, se facciamo il tampone spesso è negativo e tuttavia se noi la trattiamo con gli anticandida la donna sta meglio. Allora la donna dice, ma perché devo prendere l'anticandida? Quando la candida e il tampone è risultato negativo? Perché tutte le caratteristiche di questa risposta clinica ci suggeriscono una risposta di tipo allergico, iperergico, che tra l'altro purtroppo per noi è anche quella che ha più probabilità di esitare nella vestibolite vulvare, cioè quello stato infiammatorio dell'entrata vaginale che si associa a bruciore, dolore prima durante il rapporto ma che poi può persistere come bruciore anche dopo indipendentemente dai rapporti, andando poi a confluire in quel quadro molto pesante che è la vulvodinia, quindi il dolore vulvare anche indipendente dai rapporti sessuali. Alessandro, alle lettrici di Star Bene naturalmente proponete tagli, no, di temi tutti al femminile, ma oggi tu hai l'occasione di così fare un ruolo da giornalista uomo e quindi magari anche tu sei interessato al tema. Assolutamente, anche perché le nostre lettrici poi sono le madri di famiglia e si sa che gli uomini sono sempre riottosi a curarsi e a esplorare determinati sintomi finché proprio non sono obbligati a farlo, per cui la mia domanda appunto sposta un po' sull'uomo il focus e volevo chiedere alla professoressa Graziottin, la candida che effetti ha negli uomini? È la donna che trasmette sempre la candida oppure l'uomo che anche lui ha? La povera donna è colpa di tutto, no. Allora, possiamo dire che, tanto per cominciare, noi la candida ce la prendiamo tutti alla nascita e ce la teniamo lì e dorme. Uomini e donne, l'abbiamo lì dormiente tutti quanti. Diciamo anche che le infezioni da candida sono rarissime in età prepubere, proprio perché ci mancano quegli ormoni sessuali che in qualche modo ne precipitano la fase florida. Compare nei bambini o nelle bambine solo quando sono gravemente immunodepressi. Ma guardando agli uomini, per gli uomini valgono alcune regole generali, ossia anche in loro la candida può esplodere quando facciamo delle terapie antibiotiche importanti e, come può succedere spesso per altre malattie, possiamo avere un portatore del sintomo e un induttore del sintomo. Che cosa intendo dire? Che possiamo avere nei due sessi dei portatori sani, cioè sostanze che hanno, persone che hanno il germe, ma nelle quali il germe per forse per la loro capacità immunitaria o per un particolare assetto genico non danno luogo a infezioni clinicamente rilevanti e che però possono trasmettere il germe a ping pong, come si dice comunemente, dall'uno all'altro. Ecco che allora che cosa possiamo notare nell'uomo? L'uomo può avere dei sintomi gastrointestinali suggestivi di una candida, sì, oppure potrebbe avere il sintomo più evidente di avere delle macchioline rosse sul glande. E in questo caso il trattamento consensuale, cioè parallelo di entrambi i partner per bocca oltre che locale, può risolvere il problema, perché altrimenti uno continua a reinfettare l'altro. Alessandro, voi nell'articolo di Starbene parlate di come evitare il rischio recidive, vero? Esatto, perché, che è un po' il tormentone. Perché questa candida sembra veramente invincibile, un po' l'abbiamo capito dalle parole della professoressa Graziottin, che è una gestione a volte anche semplice, perché basta abbassare il pH, però per esempio quello che ci ha detto sugli uomini significa avere, come dire, una cogestione del rimpallo di questa cosa. Però si sente spesso parlare anche di cure sbagliate, fatte al momento sbagliato, oppure non abbastanza prolungate, infatti interrotte troppo precocemente. Qual è il vero motivo, il motivo numero uno, o il due, il tre delle recidive di candida? Professoressa. Antibiotiche, nel parlare di recidive importanti in acuto, una terapia antibiotica alla quale non si faccia in parallelo una terapia antimicotica. Questa è una strategia pragmatica che io ho adottato nei miei pazienti che sono vulnerabili alla candida, quindi le ho informate nel momento in cui dovessero per necessità fare una cura antibiotica, perché hanno la broncopolmonite, perché hanno insomma una malattia importante, per cui l'antibiotico è necessario, meno male che l'abbiamo, però in parallelo fare l'antimicotico sistemico, cioè per bocca e anche locale. Questa è la prima cosa. Però voglio allertarvi su un altro aspetto che ho visto essere estremamente importante e totalmente negletto. Quando noi parliamo di candida dobbiamo guardare l'alimentazione, e oggi per esempio noi vediamo non solo per l'aspetto degli zuccheri che ho già menzionato, ma importantissimo per l'aspetto dei lieviti. Noi abbiamo ragazzini, lo vedo quando chiedo cosa mangiano, praticamente mangiano pizza o lievitati come grande dominante della loro alimentazione. Dobbiamo dire che questo è un grave errore dal punto di vista alimentare, ma in particolare un grave errore dal punto di vista della predisposizione alla recidiva di candida. Per cui un'altra regola è quello di limitare al massimo i cibi lievitati. Sì. E attenzione, quando diciamo lievitati mi dico: ma allora il lievito madre è naturale? Guardate che naturale non è la panacea di tutte le virtù. Il lievito madre non va bene, cioè dobbiamo evitare i cibi lievitati, preferire verdura, frutta, pesce, carne, uova, cereali e legumi, vanno benissimo. Di lì non si scappa, professoressa Graziottin. L'altra cosa importantissima, attenzione al tono del muscolo che circonda la vagina. Questo dico una cosa importantissima, perché quando noi abbiamo infezioni, vaginiti, cistiti, ma anche le emorroidi o le ragadi, queste stati infiammatorie determinano una contrazione di difesa del muscolo che circonda la vagina. Qual è il problema? Che nel momento in cui questo muscolo è contratto, se la ragazza ha un rapporto, sente dolore, noi abbiamo un blocco immediato della lubrificazione e si formano delle microabrasioni sulle quali poi vanno a impiantarsi le spore di candida, determinando tutti i sintomi dell'infezione e gli altri germi che normalmente se ne stanno tranquilli. Questo attiva una cellula di difesa che si chiama mastocita, attiva uno stato infiammatorio cronico che è poi il preludio della famosa vestibolite. Quindi attenzione, quando c'è una candida recidivante io guardo sempre il tono del muscolo elevatore dell'ano e insegno alla ragazza a farsi lo stretch, quindi a rilassare questo muscolo, farsi proprio un massaggio di distensione di questi muscoli. Se mi rendo conto che è uno stato di forte contrazione o addirittura un'inversione del comando, in altre parole io le chiedo di spingere, lei invece contrae involontariamente, naturalmente, certo. Questa è l'indicazione a fare il biofeedback, cioè una tecnica riabilitativa che fa la fisioterapista o il medico, in cui la donna con poche sedute impara a rilassare correttamente il muscolo. Professoressa Graziottin, parliamo di terapia, ma quanto deve durare? Alessandro diceva ci sono tante donne che smettono, no, la terapia o fanno la terapia sbagliata. Diamo un'indicazione. Le indicazioni che ne abbiamo nella letteratura scientifica sono di continuare fino a 6 mesi, per esempio col fluconazolo 150 mg, una pastiglia alla settimana, quando la recidiva comincia a diventare importante. In questo caso almeno primo mese io curo anche il partner. Ma c'è la visita medica di controllo, dobbiamo fare tutti i test. Tra i test c'è anche l'elettrocardiogramma. Non ti preoccupare, ti passo le risposte. L'elettrocardiogramma è quello che ti attaccano le ventose al petto, serve per vedere come ti funziona il cuore, no? Ah, pensavo che era quello per vedere se avevi il petto appiccicoso. Come avete intuito, parliamo di elettrocardiogramma. Lo facciamo con il professor Francesco Fedele, ordinario di cardiologia all'Università La Sapienza di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, a chi è consigliato e che cosa, perché vi è utile? L'elettrocardiogramma mostra l'attività elettrica del cuore, quindi in caso di anomalie può mettere in evidenza una patologia. Dovrebbe essere indicato a tutti, nel senso che anche soggetti giovani dovrebbero almeno fare un elettrocardiogramma, soprattutto se intendono svolgere un'attività sportiva. Questo perché un'alterazione elettrica che si può valutare con l'elettrocardiogramma può essere appunto una spia di una patologia non conosciuta. E poi successivamente nel corso della vita sicuramente è bene, come dicevo, dicevo, fare un elettrocardiogramma prima di iniziare un'attività sportiva, e poi nelle persone cosiddette a rischio, cioè le donne per quanto riguarda dopo la menopausa, e gli uomini già dai 30 anni dovrebbero fare, soprattutto se hanno una familiarità per cardiopatie, se sono dei fumatori, se sono diabetici, se hanno ipertensione, quando se hanno il colesterolo alto, sicuramente, quindi hanno tutti questi fattori di rischio, sicuramente dovrebbero eseguire un elettrocardiogramma e non solo un elettrocardiogramma di base. Professor Fedele, infatti, affianco all'elettrocardiogramma, a volte il nostro medico ci prescrive anche l'ecocardiogramma. L'eco fa vedere bene l'anatomia del cuore, cosa che l'elettrocardiogramma fa soltanto presupporre, e fa vedere la funzione, cioè fa vedere come si muovono le pareti del cuore, come si muovono le valvole, se ci sono delle alterazioni globali del movimento della parete oppure segmentali, quindi sicuramente i due esami sono complementari. Professor Fedele, io invece vorrei parlare con lei anche dell'elettrocardiogramma da sotto sforzo. I pazienti che sono, diciamo, a rischio di patologia cardiovascolare, cioè il rischio lo deve determinare il medico di famiglia più che il cardiologo, cioè il medico di famiglia sa se si trova di fronte appunto a un paziente che ha, come dicevo prima, familiarità per cardiopatia ischemica o per patologie cardiovascolari, se ha altri fattori di rischio, appunto fumatore, diabete, ipertensione, ipercolesterolemia. Quindi l'elettrocardiogramma da sforzo serve per vedere il comportamento durante sforzo, durante esercizio, serve a sollecitare il cuore, che è una pompa e quindi non può essere valutato soltanto nelle sue condizioni di riposo, per vedere se effettivamente compaiono delle anomalie durante sforzo, un'anomalia per quanto riguarda il ritmo e anche delle anomalie di altri parametri che sono appunto suggestivi di qualcosa che non va. Dovrebbe essere riservata a chi vuole fare appunto attività sportiva, a chi ha anche un certo rischio, e direi che dopo i 50 anni sicuramente, 55 anni per gli uomini e dopo i 45 per le donne è indicato, cioè un check, se si fanno tanti check riguardanti per esempio anche la patologia oncologica, e conviene anche vedere come sta il nostro cuore durante sforzo. Quindi anche proporrei, diciamo, un allargamento alle indicazioni di questo esame. Professor Fedele, la ringrazio, lei è stato chiarissimo e mi raccomando, proteggiamo il nostro cuore, continuiamo con i controlli, con un'attività fisica regolare che al cuore sicuramente fa bene e con una dieta equilibrata. Professor Fedele, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Bene, direi che adesso potremmo provare ad imparare qualcosa di utile per il nostro benessere che, cari amici, lo sapete, dipende il più delle volte da attenzioni molto semplici, quotidiane, come ad esempio portare in tavola frutta e verdura ben pulita. In linea con noi abbiamo Venezia Villani, che è direttore di cucina naturale e tecnologa alimentare. Buongiorno direttore, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, mi stia vicina e mi segua. Sono andata al mercato e ho fatto la spesa di frutta e verdura, insalatina, pomodori, albicocche, ho preso anche delle fragole perché erano belle, un mazzetto di ravanelli, le ciliegie, ahimè, erano troppo care, le ho lasciate. Adesso devo passare alla fase 2. La preparazione e quindi il lavaggio. Il primo dubbio: lavo solo quello che mangio subito oppure lavo anche quello che metto in frigorifero per domani? È meglio lavare solo quello che è da preparare per il giorno stesso, perché noi non lo sappiamo, ma la frutta e la verdura ha delle sue difese. Per esempio le mele, le prugne hanno sulla superficie una cera naturale che loro producono, che serve proprio per conservarsi meglio. Lavandole noi rischieremmo di togliere questo velo protettivo e le renderemo più sensibili magari alle ammaccature o agli agenti esterni. Allora andiamo al lavaggio. Prima è meglio lavarci le mani, eh? Assolutamente, questo sempre, questa è proprio la condizione iniziale per qualsiasi preparazione alimentare, che sia frutta, e tanto più se poi si tratta di alimenti più delicati come la carne o alimenti di origine animale, diciamo. Iniziamo dalle verdure a foglia, quindi insalatine varie, spinaci, bietoline. Le metto a bagno o le lavo sotto l'acqua corrente dentro lo scolapasta? Il metodo ideale per il lavaggio delle verdure a foglia è, io per esempio spiego come faccio io, perché diciamo è la sintesi un po' delle cose che so, e cioè uso il catino dello sgronda insalata, sì, no? Come contenitore, poi si può usare un qualsiasi catino. Lo riempio d'acqua, ci metto le verdure, le agito, le faccio diciamo, muovere nell'acqua, e poi le passo, le tiro su, le passo nella parte, diciamo, forata. Diciamo, questa operazione la compio 2 o 3 volte fino a quando l'acqua di lavaggio non mi appare completamente pulita, ma non c'è bisogno né di lasciarlo dentro né di mettere ogni foglia sotto l'acqua. Quindi questo doppio passaggio. È chiaro che se sono spinaci ci metteremo un po' di più per lavaggi, ma ne vorrà qualcuno in più, però non conviene lasciarla in ammollo per troppo tempo. Pomodori, albicocche e compagni, parlo della frutta e anche della verdura che non viene sbucciata, come faccio a lavarle presto e bene? Questa sì, va messa sotto l'acqua corrente e va anche strofinata. Evidentemente sarà necessario strofinare di più pesche e albicocche che hanno una buccia più pelosina, diciamo vellutata, sì, e che può trattenere magari le impurità, mentre invece i pomodori, che hanno una bella buccia liscia e impermeabile, basta veramente un passaggio veloce sotto l'acqua, una strofinata rapida e sono pronti. Andiamo sul difficile, almeno per me. Fragole, frutti di bosco, sono teneri e delicati, ma soffrono i lavaggi energici, si inzuppano d'acqua e perdono sapore, però bisogna portarle in tavola puliti. Come si fa? Allora, innanzitutto per le fragole è meglio non togliere il picciolo e lasciarle ancora integre, e comunque in questo caso il lavaggio va fatto sotto il getto dell'acqua, però velocemente. Non conviene assolutamente immergere nell'acqua perché veramente perderebbero corpo e sapore. Vanno sciacquate sotto il getto dell'acqua, sotto uno spruzzo dell'acqua preferibilmente, così non è troppo forte il ad occetta, diciamo. Ad occetta, sì, sì, sì, sì, sì. Mentre per i frutti di bosco, quindi lamponi... Anzi, per i lamponi è ancora più delicato il lavaggio perché sono in genere già senza picciolo. Diciamo che vale un po' per tutti lo stesso principio, un lavaggio ad occetta veloce e non lasciarlo immerso nell'acqua. Se io aggiungo qualche goccia di limone, magari le faccio fare un bagnetto rapido con un po' d'acqua, limone o aceto, funziona o non funziona? Ma gli esperti dicono che per quanto riguarda il lavaggio casalingo delle verdure e della frutta, l'uso di che sia limone aceto o che sia piuttosto bicarbonato o altre cose non è così importante. Cioè, queste sono diciamo il bicarbonato o l'ipoclorito, che poi diciamo è la candeggina molto diluita, hanno senso nelle preparazioni industriali, quando per esempio per l'insalata in busta questa poi deve durare giorni e giorni. Invece noi andiamo d'acqua, semplicemente d'acqua. L'acqua che è la cosa migliore. L'ultima domanda, tempo di melone, lei lo lava prima di tagliarlo o no? Se non è sporco, no. Se è sporco di terra lo lavo e lo asciugo, perché l'acqua può fare da solvente per far diciamo diffondere di più lo sporco, quindi se lo si lava lo si asciuga prima di tagliarlo. Allora, grazie a Venezia Villani, direttore di Cucina Naturale. Se voi avete dei dubbi o dei consigli da darci, essere benessere@radio24.it. La saluto, direttore, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Siamo tornati insieme ed ora è arrivato il momento di leggere la posta. Intanto vi ricordo che se volete inviarci mail, il nostro indirizzo è esserebenessere@radio24.it. Andiamo alla mail. Buongiorno a tutti. Mi permetto di suggerire un argomento che mi interessa molto, le smagliature. È un problema estetico che interessa a tante persone, di cui si legge poco, con informazioni spesso contrastanti e prevalentemente di carattere pubblicitario. Mi piacerebbe invece un punto di vista qualificato e autorevole. Grazie per l'attenzione, Manuela. E allora noi oggi cercheremo di aiutare la nostra Manuela. Lo faremo insieme alla dottoressa Valeria Dente, dermatologa dell'IDI, l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dottoressa, perché vengono le smagliature? Ci sono tipi di pelle più predisposti di altri, oppure uno stile di vita che in qualche modo può farle insorgere? Assolutamente sì, in quanto le smagliature sono delle cicatrici e si formano quando il tessuto cutaneo, sottoposto ad una eccessiva tensione, perde la sua elasticità e subisce una lesione dovuta allo sfibramento sia del derma sia dell'epidermide. Quindi ci sono sicuramente numerosi fattori, primo fra tutti una predisposizione genetica, o ancora per esempio donne in gravidanza, oppure pazienti giovani in età puberale che chiaramente in seguito ad un rapido accrescimento possono determinare la formazione di smagliature, ad esempio donne sul seno oppure in corrispondenza di cosce e glutei. È vero. A parte questo, ci sono anche dei farmaci che possono favorire l'insorgenza delle smagliature. Noi possiamo aiutarci a casa con delle creme, con dei prodotti che aiutino la nostra pelle a essere più elastica. Ma che tipo di creme bisogna utilizzare, dottoressa? Allora, dobbiamo utilizzare sicuramente quotidianamente delle creme idratanti ed emollienti che possano donare maggiore elasticità alla nostra pelle, e attualmente si utilizzano anche delle creme che contengono diidrossiacetone, che è una sostanza che pigmenta la smagliatura e quindi la camuffa, la rende più omogenea con il colore della pelle circostante. Senta, dottoressa, invece nei casi in cui le smagliature ci sono e si vedono e sono chiare, all'inizio sono rosate, vero, quando si formano, e poi tendono ad assumere quel colore un po' lattiginoso, biancastro? Sì, sicuramente noi dobbiamo intervenire il più precocemente possibile. Una smagliatura rosa o rossa, quindi una fase precoce, è più facilmente aggredibile da un punto di vista terapeutico che non quando raggiunge il color madreperlaceo. Quali sono i trattamenti che possiamo fare non casalinghi, quindi dopo le creme? Che cosa ci aspetta? Dunque, da un punto di vista ambulatoriale abbiamo a disposizione diversi trattamenti. Premetto che nessuno di questi permette di eliminare completamente la smagliatura, ma sicuramente ci permette di camuffarla e di renderla più omogenea rispetto alla pelle circostante. Abbiamo a disposizione dei peeling che, eliminando gli strati superficiali, levigano la smagliatura. Abbiamo a disposizione biostimolazioni con acido ialuronico, cioè piccole iniezioni di collagene a bassa percentuale, che ha un forte potere non solo idratante ma anche di biostimolazione, in quanto il collagene sull'acido ialuronico la pelle costruisce. E poi abbiamo l'innovazione del momento, l'utilizzo dei laser, in particolar modo del laser frazionato, che è un laser che ha la capacità di andare a effettuare delle micro aree di distruzione del tessuto e della pelle sana circostante, stimolare la rigenerazione di nuovo tessuto. Questi trattamenti non eliminano completamente le smagliature, ma l'attenuano in modo considerevole, dottoressa? Assolutamente sì, riusciamo ad ottenere un buon miglioramento. Ovviamente più precocemente interveniamo, migliore sarà il risultato estetico ottenuto. Grazie, dottoressa, per essere stata con noi. La ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E adesso scendiamo giù fino ai nostri piedi per parlare di un problema diffuso e anche molto fastidioso, direi doloroso. Parliamo di unghia incarnita, cioè quando l'unghia del piede, in modo particolare quella dell'alluce, non cresce diritta, ma si incurva e penetra nella pelle ai lati del dito, e sono veramente dolori, fa vedere le stelle. Ne parliamo oggi col professor Abagnina, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, grazie dell'invito anche oggi. Podologo e presidente della Società Italiana di Podologia, che ha anche un sito, vero professore? Vogliamo ricordarlo? Il nostro sito è www.sniponline.it. Allora, iniziamo dal principio. Ci sono alcuni individui che hanno la, tra virgolette, sfortuna di nascere con una forma ungueale già predisposta o addirittura incarnati. Sono dei bambini che nascono con un'unghia incarnata, senza ancora aver messo un paio di scarpe ai piedi o messo il piede per terra per camminare. Altre volte, invece, la maggior parte, forse, siamo noi che con o abitudini errate di calzature, oppure con una camminata sbagliata che incide sulle forze applicate sull'unghia, o con tagli errati, favoriamo l'insorgere di questa patologia che si chiama onicocriptosi in termine tecnico. Ci sono delle avvisaglie oppure quando ce ne accorgiamo il danno è già fatto? Allora, dobbiamo innanzitutto capire che non tutte le volte che l'unghia fa male è un'unghia incarnita. Sì. Perché bisogna fare una diagnosi differenziale tra, ad esempio, una semplice callosità del solco ungueale dovuta a una pressione senza alcuna ferita, senza alcuna infezione. Sì. Che fa male ugualmente, ma non è un'unghia incarnita, oppure ci sono patologie un po' più complesse che dipendono dalla falange, dall'osso che c'è sotto, che essendo in proliferazione eccessiva preme contro l'unghia nella scarpa e fa male, e sono le esostosi subungueali. Mm. Quindi già fare una diagnosi tra queste tre patologie ed eventualmente le onicomicosi, che in genere non fa male ma possono essere concomitanti a queste patologie, è importante. Certo. Per capire quanto è il problema, dov'è il problema e qual è la soluzione, il mio consiglio è di fare una visita da un podologo, che è la persona più indicata in questo campo per capire e fare la diagnosi giusta. Anche il medico di base, però, è il dermatologo, possiamo chiamare anche queste figure anche professionali intorno alla nostra unghia. Assolutamente, vero? Può avere questo tipo di preparazione. Senta, professora Abagnina, adesso invece il trattamento è molto più soft e soprattutto risolutivo, ne vogliamo parlare? Allora, esiste tutta una serie di trattamenti, definiamoli incruenti, sì, che sono di lunga durata e non di sicuro risultato, che sono un po' tipo quelli che usano i dentisti, gli odontoiatri per correggere la dentatura, sì, delle barrette incollate all'unghia di vari metalli o plastica per rieducare l'unghia a sollevarsi se è troppo incurvata. Sì. Noi diciamo che queste tecniche le abbiamo abbandonate ormai da 10 anni, sull'esempio della scuola americana, che con un semplicissimo intervento ambulatoriale di minima invasione permette, sì, di risolvere definitivamente e praticamente con pochissimo dolore il problema dell'unghia incarnita recidivante. Si fa una piccolissima anestesia del dito, sì, in modo che non si senta nessun dolore, quindi un'anestesia troncolare periferica, sì, che si può fare anche a bambini piccoli. Sì. Dopodiché si fa un taglio della parte eccessiva dell'unghia fino alla matrice che sta sotto la pelle, sì, non vengono dati punti, si asporta sia il pezzo di unghia che la matrice, e per essere sicuri che non ricresca mai più si fa un processo con questa sostanza chimica che si chiama fenolo e viene bruciata proprio le celluline matriciali. A quel punto, senza necessità di, ripeto, di punti o di grandi cose, l'unghia deve solo rimarginare nella sua ferita che si è creata con l'atto di minima chirurgia, e dopo 20 giorni il paziente non ha più il problema, per tutta la vita non gli ricresce più. Allora, professore, abbiamo iniziato con una descrizione dolorosa, invece finiamo con una buona notizia. Professore, la ringrazio per essere stato con noi e le auguro buona giornata. Grazie a voi, è sempre un piacere, Nicoletta. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.